L'ho vista quella volta ed era venerdì. Per me fu primo amore, per lei così così. Poi un giorno mi ha salutato e il nostro caro Dante rimase fulminato. Questa è la verità, io sono un gran poeta, però se penso a lei divento analfabeta. Non trovo le parole, non è più roba mia. Respira caro Dante, ritorna sulla via. Beatrice, io ti loderò, con tanta poesia di te io parlerò. Il sogno che vivrei, la musa che vorrei, fin quando scriverò. Notte e dì, tu stai sempre lì, su quella scrivania, con tanta fantasia. Racconto di Minosse, che ha sempre tanta tosse, di Giacco il golosone, di Puccio il ladrone. Ma poi chi farebbe più così? Scalare le montagne per un amore grande. Sognare nel suo viso, Beatrice trepidante, fa l'occhiolino a Dante. Le cantiche più belle Beatrice mi ha ispirato, sono proprio cotto, bollito, innamorato. Su via, Dante, non fare letterato, ricordati di quando il saluto ti ha negato. Vabbè, vi spiego, Francesca lo ha taggato in una vecchia foto e con lei era abbracciato. Ridete pur di me, ho coro sciagurato. Io lo perdono già, Dante mi ha incantato. A parlare a voce, io non sono bravo, balbetto e il cuore mi salta fuori dal petto. Di te poesia farò, oppure esploderò la cosa.